Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle riflessioni e alle iniziative del movimento animalista, antispecista e vegan. Andiamo in onda ogni settimana dal 2012 con l'obiettivo di leggere il presente, quindi la cronaca, dando considerazione e attenzione agli animali non umani, al loro punto di vista e al loro interesse. Lo facciamo per ridurre la violenza nei loro confronti, quindi anche per costruire una società umana migliore, una società non violenta o, come ci piace dire, cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 565, nella quale parleremo di guasti al telefono, un'ordinanza che beffa i visoni, la regina degli scimpanzé e l'ennesimo venerdì nero per gli habitat naturali. Speriamo di avervi incuriositi. Prima notizia, abbiamo deciso di parlare del dibattito, secondo noi fecondo, che si è scatenato intorno a uno spot pubblicitario di Telefono Azzurro, l'associazione d'ascolto e di intervento che si occupa in particolare delle violazioni dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Lo spot in questione, pubblicato sui canali social dall'associazione in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Infanzia, celebrata il 20 novembre, doveva veicolare il messaggio «Prima i bambini» in riferimento all'attuale situazione pandemica mondiale. C'è un incendio, un uomo adulto si introduce nella casa in fiamme, raggiunge una stanza in cui ci sono due bambini e un cane, si inginocchia, dice va tutto bene, poi prende il cane e lo porta in salvo, abbandonando i bambini tra le fiamme. La sovrascritta recita: sembra impossibile, ma è così, non lasciamo soli i bambini in questa emergenza sanitaria. Le reazioni sono state immediate. Il vecchio, trito e scorretto messaggio che passa è che debbano essere fatte delle scelte fra gli animali e i bambini e che le persone che aiutano gli animali sono insensibili ad altri problemi gravi come quello della salute mentale e fisica dei ragazzi e dei bambini durante questa pandemia. La critica che ci è sembrata più ficcante è quella espressa nella sua pagina Facebook da Danilo Selvaggi dell'associazione LIPU, che vi leggiamo. Lo spot gioca una carta davvero discutibile, scrive Selvaggi. Mettere in competizione due debolezze, due bisogni, due sofferenze, due vite in pericolo. Il punto allora non è aver posto sullo stesso piano la vita di un bambino e quella di un animale, o addirittura aver messo prima la vita dell'animale rispetto a quella del bambino, quanto aver creato un'opposizione impropria. Perché devono essere necessariamente alternative le vite di chi ha bisogno? Una versione sensata dello spot potrebbe essere che l'uomo entra, sfida le fiamme, arriva nella stanza dei bambini e del cane e salva la PlayStation, o il nuovo smartphone, o la TV da 70 pollici. Questo è il vero problema oggi. Più che l'amore per chi vive e soffre e ci chiede una mano, il nostro amore è smisurato per gli oggetti. Non è bello rivolgersi al cuore degli italiani chiedendo di donare per i bambini e non per gli animali, o per i beni culturali, o per il restauro dei libri, o per la ricostruzione di un luogo distrutto, eccetera, eccetera. Per certi aspetti non è nemmeno ragionevole. Il cuore degli italiani è grande e spazioso, così come la loro intelligenza. Le braccia dell'uomo che sfida l'incendio sembrano forti a sufficienza, proprio come le nostre braccia, per portare in salvo i bambini e anche il cane. Non deve essere un'impresa così difficile per una società avanzata organizzarsi per dare una mano a tutti, o almeno provarci. Tutte le polemiche che ci sono state non sono cadute inascoltate e lo spot è stato ritirato dall'associazione Telefono Azzurro, che ha anche chiesto apertamente scusa. Non intendevamo creare alcuna contrapposizione tra i bambini e le categorie vulnerabili, ha sostenuto Telefono Azzurro. Sarà nostro impegno rimuovere il video poiché abbiamo compreso che il coinvolgimento del cane ha turbato la sensibilità di molti e di questo ci scusiamo. Bene, noi speriamo che questo svarione di Telefono Azzurro sia servito alla coscienza collettiva per fare un passo avanti rispetto alla vieta logica delle contrapposizioni escludenti. The last time we were together, lately it feels like forever. La seconda notizia, restiamo in Italia e torniamo sul caso dei visoni infetti da SARS-CoV. Un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza sospende tutte le attività di allevamento di visoni da pelliccia sul territorio italiano, a prescindere dalle condizioni degli animali, fino alla fine del mese di febbraio 2021. Poi a fine febbraio dell'anno prossimo verrà effettuata una nuova valutazione sullo stato epidemiologico. Il provvedimento interviene dopo che a livello internazionale sono stati rilevati rischi da Covid-19 legati a questi allevamenti. I ricercatori hanno scoperto che diversi tipi di coronavirus interessano altri animali oltre agli esseri umani e l'attuale coronavirus SARS-CoV-2 può infettare primati non umani, cani, gatti e altri felini, pipistrelli, pangolini, criceti e diverse specie di mustelidi, tra i quali proprio i visoni. I visoni, come altri mustelidi, sono molto sensibili al coronavirus perché le membrane delle cellule del loro apparato respiratorio hanno una versione del recettore ACE2 simile alla nostra e possono, in alcuni casi, essere contagiati da un essere umano, contagiarsi tra loro o contagiare altri esseri umani. Solitamente le gabbie negli allevamenti sono separate l'una dall'altra con pannelli che impediscono il passaggio delle correnti d'aria, mentre la parte superiore è aperta. Quando i visoni tossiscono o starnutiscono, diffondono particelle virali da una gabbia all'altra, contagiando un numero considerevole di animali in poco tempo. Se sviluppano un'infezione virale, anche questi visoni tendono poi a contagiarne altri. Precisiamo per correttezza che i visoni non hanno scampo. Se non vengono soppressi perché trovati infetti, vengono comunque uccisi per essere scuoiati, per cui per loro il supplizio è comunque garantito. L'unica via di uscita potrebbe essere il divieto assoluto e definitivo di allevamento. Solo questa decisione potrebbe fermare la macchina infernale. La LAV ha duramente criticato il decreto del governo. È come aver vietato nei mesi invernali la vendita degli ombrelloni da spiaggia, sostiene in un comunicato stampa. Un'ordinanza inutile e senza efficacia nello scongiurare serbatoi di coronavirus tra i visoni. C'è bisogno di coraggio. Dobbiamo seguire l'esempio dei paesi europei, ad esempio Regno Unito, Austria e Germania, che già da diversi anni hanno vietato l'allevamento di visoni e che quindi non hanno problemi di diffusione del virus da queste strutture. Abbiamo già scoperto il coronavirus in allevamenti italiani ad agosto e a novembre. Abbiamo già denunciato violazioni alle minime norme di biosicurezza. Per tutelare animali e salute pubblica, l'unico provvedimento utile da adottare è il definitivo divieto d'allevamento di visoni. E a proposito della lotta animalista per la difesa dei visoni, sentiamo cosa ci racconta questa settimana Francesco Cortonesi, attivista, animalista, antispecista e vegan. La scorsa settimana gli attivisti di Essere Animali sono stati colpiti con un bastone di ferro mentre protestavano pacificamente davanti a un allevamento di visoni a San Marco, nel comune di Ravenna. L'allevatore non si è fatto scrupolo neppure di infrangere ogni norma di biosicurezza. L'obiettivo della protesta era chiedere alle istituzioni la chiusura urgente degli ultimi 9 allevamenti da pelliccia ancora attivi in Italia, per le gravi sofferenze a cui sono sottoposti gli animali e per il rischio di diffusione di coronavirus dopo i casi di visoni infetti rilevati in diversi paesi nel mondo, tra cui appunto l'Italia. Durante l'azione, un'attivista di Essere Animali è stata colpita alla schiena con una spranga metallica da un operatore dell'allevamento che non indossava nessun dispositivo di protezione individuale, come mascherina, guanti e camice. Il cartello che reggeva l'attivista e con cui protestava in modo pacifico è stato rotto e contemporaneamente la ragazza è stata più volte insultata con epiteti sessisti. Le violazioni dell'operatore alle norme di biosicurezza anti-Covid-19 sono gravissime. Nel frattempo, le condizioni dei 1000 visoni rinchiusi nell'allevamento a San Marco di Ravenna sono state monitorate dai carabinieri del NAS e dai servizi veterinari dell'azienda ASL Romagna, i quali non hanno riscontrato sintomi clinici riferibili a infezione da SARS-CoV-2. È stato comunque appurato che sono gli allevatori malati a contagiare i visoni. Va ricordato che in Italia, come nel resto d'Europa, gli allevamenti di visoni sottopongono gli animali a privazioni che causano gravi sofferenze, ferite, comportamenti stereotipati e autolesionistici e presentano condizioni che inevitabilmente favoriscono anche l'eventuale diffusione di un virus. Attualmente, Essere Animali sta continuando la campagna per chiedere la chiusura definitiva e totale degli allevamenti. Francesco Cortonesi è anche portavoce del progetto Zoo Out. Vi consigliamo di seguirlo sui principali social network. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Prossima notizia, parliamo di una donna straordinaria, Jane Goodall, la scienziata naturalista di fama mondiale che si batte da sempre a favore dei primati non umani. Goodall ha preso la parola attraverso l'associazione italiana che porta il suo nome a favore delle scimmie ancora prigioniere negli zoo italiani e costrette a vivere in condizioni deplorevoli, del tutto inadeguate ai loro bisogni specie specifici. Rinchiuse dietro le sbarre in ambienti con temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione inadatte, costrette ad avere addosso gli occhi dei visitatori senza possibilità di sottrarsi a queste ingombranti presenze. A volte sono sole, mentre in natura vivrebbero in gruppi ben nutriti, trattandosi di animali con una spiccata socialità. Ci sono persino cuccioli che vengono separati dalle loro madri. Sono queste le terribili condizioni in cui sono costrette a vivere durante la loro cattività le grandi scimmie negli zoo italiani. La denuncia di Jane Goodall è però solo la premessa per una serie di proposte migliorative concrete. La regina degli scimpanzé, così viene definita ormai da anni, ha inviato ai ministeri competenti italiani una proposta che garantirebbe criteri minimi per la gestione in cattività delle grandi scimmie antropomorfe negli zoo del bel paese. Criteri e requisiti minimi per la gestione in cattività delle grandi scimmie antropomorfe è il titolo della proposta di decreto ministeriale che è stata inoltrata ai dicasteri dell'ambiente, della salute, delle politiche agricole e ai carabinieri del CITES dal Jane Goodall Institute Italia. Abbiamo lavorato molto duramente per mettere insieme questa importante proposta con un comitato scientifico internazionale dei più alti livelli. Si tratta di specie che hanno un'intensa vita di relazione ed emotiva, differenti personalità, comportamenti complessi e coscienza di sé, animali che condividono con l'essere umano il 98,6% del corredo genetico e la cui gestione in cattività quindi deve garantire le migliori condizioni possibili. Si chiedono recinzioni con caratteristiche e dimensioni adeguate, ambienti idonei dal punto di vista della temperatura, dell'umidità, della ventilazione, dell'illuminazione, l'isolamento dalle fonti di rumore. Inoltre, trattandosi di animali con una spiccata socialità, in cattività deve essere fatto uno sforzo per ricreare gruppi che riflettano la situazione in natura, per salvaguardare il benessere fisico e psicologico degli animali e per facilitare comportamenti appropriati alla specie. Un individuo non dovrebbe mai essere isolato dal gruppo, se non per ragioni mediche, così come i piccoli non dovrebbero mai essere separati dalle madri, senza un valido motivo. Le scimmie, poi, non dovrebbero mai entrare in contatto fisico con i visitatori. Particolare attenzione, infine, dovrebbe essere dedicata alla sicurezza sanitaria. Le grandi scimmie, infatti, sono sensibili a molte malattie umane. Va aggiunta una premessa. Queste forme di detenzione non potranno mai soddisfare i bisogni etologici degli animali, perché nessun vivente ottiene una vita degna di essere vissuta all'interno di una gabbia, di un recinto, di uno spazio limitato, privato della propria libertà. Quindi l'associazione che porta il nome di Jane Goodall naturalmente si augura la fine dello sfruttamento a fine commerciale delle scimmie, ma aggiunge la normativa può fornire dei vincoli obbligatori per arrivare quantomeno a migliorare la qualità della loro vita in cattività nell'immediato. Che cosa possiamo fare noi? Ognuno di noi può fare la differenza per aderire alla proposta del Jane Goodall Institute Italia, firmando una petizione che potete trovare digitando www.janegoodall.it. Per la prossima notizia andiamo nel sito internet del WWF Italia, dove con lo slogan "Il Black Friday è alle porte, ma la natura non è scontata" è in corso una campagna di sensibilizzazione sul tema dei consumi e dei danni all'ambiente causati dagli acquisti a partire da quelli superflui. In occasione della giornata dei grandi affari nei negozi, il Black Friday di venerdì 27 novembre, quando per aumentare i fatturati le maggiori piattaforme commerciali offrono sconti spropositati su molti articoli voluttuari, la campagna del WWF sottolinea che la natura non è scontata. Al contrario di quanto accade nel mercato globale, in quest'ultimo venerdì di novembre la natura non è scontata e per molte specie animali e vegetali ciò che continua drammaticamente a diminuire sono proprio le probabilità di sopravvivenza. Negli ultimi 50 anni il nostro mondo è stato trasformato dall'esplosione del commercio globale, dei consumi e della crescita della popolazione umana, oltre che da un grandissimo incremento dell'urbanizzazione. Queste tendenze di fondo stanno portando al degrado della natura e al sovrasfruttamento delle risorse naturali ad un ritmo senza precedenti. La campagna del WWF si gioca su questi numeri, quelli degli sconti, meno 70%, meno 50%, meno 85%, percentuali da capogiro, che sono però purtroppo i numeri reali e concreti della perdita di natura che è in corso proprio a causa del nostro sistema basato sui consumi superflui. Nell'immagine in stile Black Friday della campagna campeggia la foto di un orso polare e si legge in grande una percentuale, meno 68%. E non è un numero a caso, secondo i dati del Living Planet Index globale del 2020, meno 68% è il decremento medio delle popolazioni monitorate di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci tra il 1970 e il 2016. In quasi 50 anni, insomma, il nostro pianeta ha perso 6 esemplari su 10, con picchi drammatici nelle zone tropicali del centro e del Sud America. Qui la popolazione animale è crollata del 94%, un fatto di cui non bisognerebbe mai scordarsi, né durante il Black Friday, né durante il resto dell'anno. I look few underneath the damp earth. I look few in the night sky. I look few underneath the thorn bush. I look few in the old city. And in looking for you, I lost myself. Abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare la ricetta di questa settimana alla questione dei visoni, animali bellissimi, selvatici, tanto ingiustamente martoriati per la loro, purtroppo, splendida pelliccia. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Cari visoni, non credo sia sufficiente dedicarvi questa ricetta per scusare la razza umana per ciò che vi ha fatto e continua a fare. Vi dedico la ricetta dello shuba, sedano rapa affumicato in pelliccia nella mia versione 100% vegetale, piatto tradizionale russo consumato spesso per Natale o Capodanno. L'unica volta che posso pronunciare la parola pelliccia senza inorridire. Ingredienti per 4 persone per lo shuba, sedano rapa affumicato in pelliccia, sono 250 g di patate, 250 g di carote, 250 g di barbe rosse cotte, uno scalogno, 250 g di sedano rapa, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di paprika affumicata, 60 ml di latte di soia al naturale, 40 ml di olio extravergine di oliva, 80 ml di olio di semi di girasole, il succo di mezzo limone, un pizzico di curcuma in polvere, un pizzico di sale Kalanamak, dell'erba cipollina per decorare e del sale. Lavate le patate e le carote e lessatele in acqua salata. Fate in modo che risultino cotte ma piuttosto compatte. Una volta pronte, sbucciatele e lasciatele raffreddare. A parte, sbucciate il sedano rapa e tagliatelo a fette dello spessore di 0,5 cm. Condite con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, il sale, la paprika affumicata e fate cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti. Quindi lasciate raffreddare in forno spento. Nel frattempo emulsionate con un frullatore ad immersione il latte di soia, l'olio di semi di girasole, 40 ml di olio extravergine, il succo di limone, un pizzico di curcuma e uno di sale Kalanamak. Lavorate fino ad ottenere una maionese liscia e compatta. A parte, con una grattugia dai fori larghi, tagliate le patate, le carote e le barbe rosse. Infine sbucciate lo scalogno e tritatelo finemente. Adesso potete comporre la vostra insalata. In un coppa pasta potete usarne uno piccolo realizzando delle monoporzioni per ogni commensale oppure uno unico più grande servendo l'insalata in un vassoio. Formate uno strato di patate, coprite con uno di maionese vegetale, un secondo strato di barbe rosse, ancora uno di maionese, il sedano rapa, le carote, lo scalogno tritato, un terzo strato di maionese e terminate con un secondo strato di barbe rosse grattugiate. Lasciate raffreddare e compattare il tutto per 2 ore in frigorifero prima di togliere il coppa pasta e servite decorando con la rimanente maionese veg e dell'erba cipollina. Breaking news! È appena uscito l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni. Il titolo è Se vuoi essere sano, cucina vegano. Oltre 300 ricette della tradizione, stagionali, vegane, 64 foto a colori a piena pagina, a soli 5,90 €. In vendita su newtoncompton.com. Un regalo di Natale imprescindibile. Fancies chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. E siamo in chiusura. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 566 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.